Posso? Allora, buonasera a tutti e ovviamente grazie di essere qua. Omnes et singulatim. Chi non ha capito capirà nel corso dell'anno. Tutti insieme e ognuno singolarmente. Allora, due parole brevissime su che cos'è questo seminario e su che cos'è per chi non lo conosce, molti di voi lo conoscono perché. E che cos'è l'AMNOD, nel cui ambito esso si svolge. È una iniziativa dell'AMNOD, cioè di una scuola di dottorato che afferisce, pertiene al Planetary Collegium di Plymouth, nel Regno Unito, fondata e diretta da Roy Ascott, che è un artista e un insegnante di fama mondiale che tutti conoscerete. Si tratta di una novità relativa novità perché il Planetary Collegium e i nodi adesso affiliati, specialmente quello di Milano e quello di Zurigo, che sono quelli che esistono da più tempo, in genere non fanno dei corsi, non fanno delle attività, si basano su un'altra metodologia, quelli di voi che ne fanno parte già conoscono, e che è quella del peer-to-peer, insomma, cioè della comunità di ricercatori che sotto la discreta direzione di alcuni più anziani o più esperti o per altre misteriose ragioni titolati a stare in quella posizione, portano avanti le proprie ricerche discutendone non solo con i propri supervisori, come si chiamano con terminologia inglese, un po' bruttina per noi italiani, ma dobbiamo farci il callo, e con i propri insegnanti, insomma, con quelli che li seguono nella ricerca, ma anche tra di loro. Quindi con questo corso noi abbiamo voluto combinare questa metodologia invece con una più tradizionale. Quindi alcuni di voi sono ricercatori all'interno di questo corso, quindi hanno presentato un progetto di ricerca, il quale però verrà in primo piano nella seconda parte dell'anno. Quelli di voi che non hanno presentato questo progetto sono classificati e sono considerati come degli uditori, che vengono qua praticamente solo per la prima parte del corso, si sorbiscono i lunghi discorsi di Amos e miei e poi vanno via e ne fanno quello che vogliono. Invece i ricercatori avranno nella seconda parte dell'anno, diventeranno i veri protagonisti del corso, perché con la stessa metodologia dell'AMNOD proporranno degli sviluppi del progetto iniziale che hanno presentato facendo uso, insomma, giovandosi, se saranno in grado di giovarsene e se noi gli avremo dato degli strumenti sufficienti per giovarsene, delle cose che hanno sentito nella prima parte. È una novità, questo si svolge in lingua italiana perché l'abbiamo fatto principalmente per i ricercatori italiani e milanesi dell'AMNOD e per gli studenti del primo anno, cioè dell'attuale secondo anno del biennio di media design, e però poi l'abbiamo aperto anche altri, quindi vedete che forse la maggioranza relativa di voi non ricade in alcuna di queste due categorie, ma le due categorie precedenti non devono sentirsi ovviamente né accerchiate né, e più ci sono anche degli studenti o delle studentesse, a quanto mi pare di aver capito, che sono credo le uniche facce che non mi sono familiari in questo consesso del biennio di arti visive. Allora, siccome il tempo è poco e io molto immodestamente, se avrete visto dal programma, mi sono proposto con poi l'aiuto di Amos, che interverrà nella fase finale, niente meno che una cosa folle, insomma, per cui dovrei essere subito crocifisso o linciato, perché in un'ora e mezzo pretendo di darvi qualche informazione o qualche idea vaga, non dico qualche concetto che sarebbe da chiedere troppo, sul tema del soggetto nell'intera cultura occidentale. Quindi se dovete tirare, cioè tirare, potete cominciare a tirare fuori le verdure e le uova marce, se ne avete, che obiettivamente sarà molto difficile, quindi non voglio sprecare più tempo. Perché il tema del soggetto? I termini che ad alcuni di voi saranno già familiari, ad altri potranno risultare meno familiari di questo corso, sono, a parte il nome del filosofo che intendiamo più o meno studiare quest'anno, sono genealogia e soggetto. Rimando per un attimo la questione della genealogia, ne cominceremo a parlarne oggi, ma la introdurrà meglio poi nella lezione successiva Amos, perché il tema del soggetto, è così importante il tema del soggetto, è così importante oggi, è così importante per la ricerca filosofica, apro una piccola parentesi, facciamo graffa così ce ne stanno altre due dentro, nel caso, parentesi graffa, nessuno vi chiede di uscire da questo, come dire, seminario, sarebbe veramente folle, insomma, come degli specialisti di filosofia. Siete tutti o artisti o aspiranti artisti o persone che comunque lavorano in quell'ambito, e quindi, però la mia personale, ormai dodecennale esperienza di insegnamento nelle accademie di belle arti, quantomeno milanesi, mi ha convinto che le accademie si portano dietro, in genere l'istruzione artistica in Italia si porta dietro un retaggio che credo vada realisticamente definito di deprivazione culturale, nel senso che non si insegna o si tende a non insegnare o si tende a mantenere in, diciamo, secondo piano, in genere nelle visioni ministeriali, eccetera, poi naturalmente ci sono le singole, diciamo, eccezioni, ma insomma complessivamente il panorama dell'Accademia è un panorama di questo tipo, secondo me con grave nocumento, con grave danno della formazione artistica, perché mai come oggi l'arte ha avuto, ne ha sempre avuto bisogno probabilmente, ma in modo particolare alla fine del Novecento e all'inizio del XXI secolo, ha un bisogno enorme del pensiero, della riflessione sui concetti fondamentali di che cosa? Di una discussione specialistica. Noi quest'anno chiaramente si parlerà di filosofia, ma si parlerà di filosofia, ma perché di fatto, al di là delle astruserie della maggior parte, forse anche di tutti i filosofi, del loro gergo terribilmente specialistico, niente in confronto a quello degli informatici o dei biologi, ma cioè, anche questo c'è, insomma. Al di là di tutto questo, però, la filosofia è la, diciamo, tradizione di pensiero dell'Occidente, in Oriente forse non è così, si chiama, ci sono altri nomi, ma diciamo qua, diciamo, nell'Occidente le cose stanno così, è la tradizione di pensiero che affronta i temi fondamentali della, posso dire, attualità, forse attualità è sbagliato, ma della contemporaneità, di ciò che ci è contemporaneo, di ciò che ci accade, ci forniscono queste, la riflessione filosofica intesa come dovrebbe essere, ci fornisce degli strumenti per capire, e eventualmente, se poi abbiamo anche voglia, e sarebbe forse desiderabile, anche per agire nella realtà e sulla realtà. E a me pare che non ci sia nessun problema nella filosofia così, la filosofia, e quindi anche però nella pratica e nella vita quotidiana, così importante e così urgente come quello del soggetto. Questo da che cosa deriva? Deriva da una cosa che spero di spiegarvi oggi, cioè che c'è stato nel corso della storia dell'Occidente un passaggio che coincide con la modernità, costellazione culturale nella quale siamo ancora in qualche modo dentro, anche se alcuni di noi e molti di noi e troppi di noi forse usano e abusano del termine postmoderno, ma anche la postmodernità è tutto sommato in ogni caso una sorta di esito o di articolazione, si potrebbe pensare nel caso più estremo, della stessa modernità. Insomma, uscire dalla modernità si rivela ogni anno che passa sempre più difficile, se non completamente illusorio. E quindi riferirsi alla modernità non ha il senso di uno studio, adesso andiamo a studiare cosa hanno detto, eccetera, eccetera, ma neanche riferirsi alla filosofia greca classica del VI, V e IV secolo avanti Cristo, perché in realtà è in quel momento, in quel piccolo fazzoletto di terra, in quel pugno di città, prima della Ionia e poi del continente, principalmente Atene, che si posero esattamente i problemi che poi con una incubazione lunga, eccetera, eccetera, sfociarono senza alcun determinismo storico, potevano sfociare in altro modo, ma insomma, siccome ci fu a un certo punto, dopo alcuni secoli, durante l'ellenismo, l'incontro di una componente particolare della filosofia greca, che era il neoplatonismo, con il pensiero, con il pensiero, con la pratica, con la religione, col cristiano spirituale di alcune piccole tribù di ex pastori e nomadi da poco convertiti all'agricoltura e abitanti nell'attuale territorio della Palestina e del cosiddetto Stato di Israele. Siccome questo incontro, che diede origine, come tutti sapete, a una delle svolte più importanti della cultura occidentale, cioè al cristianesimo, furono poi gli esiti del cristianesimo che attraverso una lunga serie di secoli diedero luogo come sviluppo alla modernità. Quindi anche studiare il pensiero greco in quanto tale non ha o non dovrebbe avere o può non avere il valore e la valenza di andare a fare degli studi eruditi su cosa abbia raccontato quella testa matta di Platone o quel burocrate del pensiero che fu Aristotele, ma perché tutte queste cose ci arrivano molto, intanto i termini che loro hanno inventato, lo stesso termine di soggetto, sostanza, eccetera, vedete, insomma. Allora, e quindi è la contemporaneità, credo, che ci deve interessare. Ora, la contemporaneità ha una caratteristica. Stare dentro un posto, stare dentro una situazione, passatemi la metafora, vuol dire stare al buio. Io sono qua e vi vedo a voi illuminati dalla luce e voi vedete me illuminato dalla luce, vedete Amos. C'è una distanza tra me e voi, distanza spaziale in questo caso, per cui fa sì che, siccome siamo vicini, siamo tutti sotto la stessa luce. Se vogliamo spostare questo esempio, questa situazione, vogliamo cercare di spostarla nel caso del tempo, capiamo che in realtà dal punto di vista temporale solo il passato e paradossalmente forse addirittura anche il futuro, ma sicuramente il passato è illuminato. Il passato è illuminato, abbiamo dei documenti, sappiamo più o meno cosa è successo, il contemporaneo, il presente, ciò in cui noi viviamo, siccome ci stiamo dentro, siccome ci lavoriamo, è un processo che ci coinvolge, che ci chiude, è buio. La contemporaneità è buia, non ha luce sua, autonoma, che la illumini. Per poter vedere nel presente bisogna fare dei contorcimenti, bisogna operare degli spostamenti, dei displacement, delle delocalizzazioni, mettersi da un altro punto di vista, fare finta di stare da un'altra parte. Quindi, non che non ci siano luci nella contemporaneità, ma sono luci che abbagliano, sono luci che ci impediscono di vedere. Quindi potremmo dire che può dirsi contemporaneo soltanto chi non si lascia accecare dalle luci del secolo e che riesce a scorgere dentro queste luci la parte dell'ombra, la loro intima oscurità. Ma noi ci possiamo chiedere perché riuscire a percepire le tenebre che provengono dalla nostra epoca dovrebbe interessarci. Il buio non è un'esperienza di per sé anonima, per definizione impenetrabile, qualcosa che non è diretto a noi, è il buio, e quindi perché dovrebbe riguardarci? E invece, invece si può dire veramente contemporaneo solo colui che percepisce il buio del suo tempo come qualcosa che lo riguarda, come un'interrogazione rivolta a lui a se stesso, a lei o a lui stessa. E colui quindi che percepisce il buio del suo tempo come qualcosa che lo riguarda e che non cessa di interpellarlo, qualcosa che si rivolge direttamente e singolarmente a lui, quindi sempre omnes et singulatim, in modo diretto. Contemporaneo è colui che riceve in pieno volto il fascio di tenebra che proviene dal suo tempo. Ciò significa che il contemporaneo non è soltanto colui che percependo il buio del presente ne afferra l'inesitabile luce, è anche colui che dividendo e interpolando il tempo è in grado di trasformarlo, di metterlo in relazione con gli altri tempi, di leggerne in modo inedito la storia, di citarla secondo una meccanica e secondo una necessità che non proviene in nessun modo dal proprio arbitrio, ma da una esigenza a cui egli non può non rispondere. È come se quell'invisibile luce che è il buio del presente proiettasse la sua ombra sul passato e questo, toccato da questo fascio d'ombra, acquistasse la capacità di rispondere alle tenebre dell'oggi, dell'ora. È qualcosa del genere che doveva avere in mente Michel Foucault quando scrisse che le sue indagini storiche sul passato erano soltanto l'ombra portata dalla sua interrogazione storica sul presente. E analogamente, quando Walter Benjamin scriveva che l'indice storico contenuto nelle immagini del passato mostra che esse giungeranno alla leggibilità solo in un determinato momento della loro storia, pensava a qualcosa di analogo, espresso in parole diverse, ma come voi capite il concetto è simile. E dalla nostra capacità di dare ascolto a quella esigenza e a quell'ombra, quindi di essere contemporanei non soltanto del nostro secolo, e dell'ora, dello yes, del now, del man now, ma anche delle sue figure nei testi e nei documenti del passato che dipenderanno l'esito e l'insuccesso del nostro seminario. Adesso prego coloro che avessero individuato già l'autore di queste righe a non tirare le verdure che si è messo da parte, perché non ho alcuna intenzione di far finta di avere scritto io queste cose. Questo è un pezzo da un aureo libretto del filosofo Giorgio Agamben che si chiama Cosa del Contemporaneo, ma siccome diceva una cosa che l'ha detta meglio lui di quello che potevo dirlo io, quindi non ho fatto nient'altro che leggere, ma soprattutto questo, siccome questo testo, come tutti i testi pubblicati dall'editore Nottetempo di Agamben, sono quasi tutte delle introduzioni a dei corsi o dei seminari di Agamben, siccome finiva con questo riferimento ad un seminario, ho pensato che fosse utile, che fosse anche buono, che fosse anche carino, leggerlo come auspicio per noi. Vediamo, speriamo di farcela, non c'è neanche un orologio. Bravissimo. Se no spengo il cellulare, se no poi mi chiamano e se ne casino. Allora, cominciamo con un po' di etimo e di etimologia. Purtroppo dovrò parlare sia un po' in latino che in greco, ma spero di spiegarvi tutti i termini. Allora, il termine soggetto deriva, come tutti sapete, dal latino subiectum, che non è chiarissimo cosa vuole dire il soggetto. Heidegger interpreta lo iectum come partito passato del verbo iectare, cioè gettare, del frequentativo, diciamo, si dice in termini linguistici, del verbo invece il verbo reale è iacere, quindi iacere o iacere? La seconda della terza, iacere, secondo, ho già fatto un bel errore. Iacere, quindi subiectum è o qualche cosa, qualcuno, qualcosa che è gettato sotto, sub, o qualche cosa che comunque sta sotto, che sta sotto. Il termine greco per soggetto, infatti, non a caso, è hypokeimenon. Non abbiamo una, lavagna qua, no, non abbiamo una lavagna, non posso scrivere le paroline. Hypokeimenon, la I greca si traslittera in genere con HY, quindi hypokeimenon, che viene da un verbo che è hypokeimai, che vuol dire stare sotto, e quindi è ciò che sta sotto. Ma attenzione però, Le opere greche in cui compare questo termine ipokeimenon, voi qualche volta lo troverete tradotto in italiano con soggetto, ma più spesso, giustamente, per esempio in un libro importante di Aristotele, che è la Metafisica, in cui questo termine compare, viene tradotto non come soggetto, ma come qualcosa di dire, come sostanza. Ora, anche substantia, come subiectum in latino, anche il sostantivo latino substanza, che è quella che più specificamente traduce il termine greco hypokeimenon, indica substantia, ciò che sta, è più facile capirlo che subiectum, ciò che sta, non ciò che, diciamo, giace. Qui forse c'è un gioco di parole, adesso non ho il tempo, ma insomma, per esempio, i tedeschi usano in tutte queste parole, che sono i termini derivati dal verbo stehen, che è stare in piedi, nello stand, lo stand inglese, insomma, no? Quindi è una cosa un pochino diversa, linguisticamente, quindi forse anche concettualmente, dire che qualcosa giace sotto e qualcosa sta sotto. Nello stare c'è una sorta di atteggiamento un po' più bellicoso, un po' più virgolette attivo, ciò che giace lì, cioè gli fanno tutti i colori, gli passano sopra, lo calpestano, lui sta sotto. Chi sta sotto invece sta, steht sarebbe in tedesco, stand in inglese, stands. Perché questo termine è così importante? Adesso poi arrivo al cortocircuito, però insomma, diciamo, dal punto di vista, parlando italiano come qualsiasi altra lingua, almeno indoeuropea, insomma, grosso modo, o europea, diciamo, contemporanea, noi sappiamo che c'è una differenza, che vogliono dire due cose diverse, il soggetto e la sostanza, no? Allora, come mai qui si pone un problema simile a quello in tutte le lingue? Insomma, nella lingua greca ci sono vari termini. Un altro termine che ci crea difficoltà è quello di tecne. Tecne noi lo possiamo tradurre in italiano sia come tecnica che come arte. Sono entrambi i concetti, sono confusi, così lo hypokeimenon aristotelico potremmo tradurlo, a seconda del contesto, come sostanza o come soggetto. In tutti i casi però è singolare il fatto che fino dall'inizio questi due concetti, che oggi poi nella riflessione successiva si sono autonomizzati, svincolati, eccetera, tutti e due fanno riferimento a una situazione di fondamento, di Grund sarebbe in tedesco, o di Ground in inglese, di qualcosa che sta al fondamento di. Ora, il problema del fondamento è, fondamentalmente, scusate il bisticcio, è di fatto, è stata di fatto dall'inizio la preoccupazione fondamentale della filosofia, da quando all'incirca nel VI secolo avanti Cristo, utilizzando per la prima volta lo strumento della scrittura, forse prima ancora, no, sicuramente c'è la poesia lirica monodica che precede i primi testi di filosofia, ma sicuramente i primi testi di filosofia, almeno quelli che sono arrivati, precedono i primi testi teatrali. Questi sono i tre grandi generi con i quali la scrittura in Grecia si è diciamo misurata, prima di misurarsi con tutto il resto, insomma, no? La lirica monodica, la lirica del singolo destinata a essere recitata e cantata da una seconda persona, la filosofia, che era una cosa nuova, che non c'era, il teatro, che era anch'esso una cosa nuova, due, diciamo, novità, mentre la lirica corale affonda le sue radici nell'epoca orale, la lirica monodica come quella corale nell'epoca orale, filosofia e, diciamo, teatro sono due generi letterari, come possiamo dire, generi letterari che sono robe scritte, quindi anche fa parte della letteratura, anche la con filosofia in senso lato. Bene, qual è la preoccupazione dei sette sapienti? Secondo adesso noi abbiamo una sola storia della filosofia greca che non mi sono portato, perché è un tomo così grosso che sono le vite e dottrine dei più famosi filosofi, di Diogene Laercio, che è un testo del secondo secolo d.C., ma raccoglie un po', insomma è la fonte, una delle fonti più, poi ci sono fonti specifiche sui singoli, ma su quelli di cui non abbiamo opere, quest'opera è l'unica cosa. Vabbè, fino in questa narrazione si parte dai mitici sette sapienti, di cui comunque Talete era uno, eccetera, insomma, fino dall'inizio il discorso filosofico è stato un discorso che ha teso a dare una risposta diversa agli stessi interrogativi ai quali tentava di dare risposta al mito. Da dove vengono le cose? Perché il mondo è fatto così come è fatto? Quali sono? Nel fare questo però, mentre il discorso del mito, non posso stare troppo a lungo su questa cosa, sarebbe molto interessante, io ci sarei molto volentieri, ma non posso. Quindi sono costretto sintetissimamente comunicarvi in maniera apodittica una cosa che spero già sappiate, se non la sapete la imparate da me, la imparate o la registrate da me in questo momento. Mentre il carattere eminentemente narrativo del mito esclude una priorità al tema del fondamento, anche quando il mito narra, racconta le vecchie origini, eccetera, eccetera, fondazione, fondamento, se voi leggete i miti di qualsiasi raccolta di miti di qualunque popolazione di tutto il mondo, sono diversissimi, non c'è nessuna, lo strutturalismo è stata un'enorme illusione, eccetera, non c'è nessuna struttura comune a questi, però in qualche modo, in tutti i casi, c'è una, l'unica cosa che hanno come comune è la gioia, la felicità, la roba di raccontare delle storie, che poi sì, ci raccontano anche perché gli uomini, perché i primi uomini sono così, perché allora i greci hanno Deucalione, Pirra, che erano, si tirano dietro le pietre, eccetera, eccetera, le pietre si animano e nascono gli uomini, gli ebrei avevano questo bizzarro signore che fa un fantoccio di argilla, poi gli soffia dentro e questo si anima e fa un sacco di casini, lui e soprattutto la sua compagna, eccetera, eccetera. Sono tutte storie, sono tutti fondamentali. Cosa c'è di fondamentale in questa cosa? Cosa c'è di grunt? Cosa c'è che sta sotto? Un bel nulla, un bel niente. Non ci sta niente nel mito. Il mito è una gioiosissima macchina di racconti che naturalmente all'interno di questi racconti veicola valori, questo è ovvio, veicola valori, ma non veicola fondamento. L'ossessione invece dei primi filosofi è quella del fondamento. Quando io in qualche maniera, anche in modo non esplicito, rifiuto il discorso mitico, la narrazione mitica, e dico no ragazzi, le cose non stanno così, non è che siamo fatti così e così perché gli dei vani, in mitologia germanica, hanno fatto la guerra con i giganti, poi hanno fatto la pace, per fare la pace prendono una cosa di argilla, ci sputano dentro, tipo la Bibbia, però c'è una roba un po' più sociale, cioè sono due schiere di dei che sono incazzate, va bene, fanno la cosa, tirano e modellano l'uomo e nasce l'uomo. No ragazzi, l'uomo non nasce da questo, nasce da un'altra cosa, nasce, non c'è ancora Darwin, ma ci sono i presupposti per Darwin, non a caso, dopo 22 secoli nasce Darwin, però diciamo l'ordine di idee di Talete che dice ragazzi esiste una sola roba importante nel mondo universo che è l'acqua. Tutto è riconducibile in ultima analisi ad acqua. Voi capite che è una spiegazione totalmente diversa, totalmente allotria, disomogenea, non omogenea con quella del mito. Nessun mitologo, né in Omero né in altri trovate mai la risata, cioè il mondo è fatto, c'è questa cosa qua, le uniche leggi immutabili che trovate in Omero sono quelle del fato, a cui lo stesso Zeus, c'è il fato, una roba misteriosissima che nessuno sa che è, ma non, il fato non è nessun fondamento, semmai al contrario è un esito, cioè è ciò che segna la fine di qualche cosa, non il suo inizio. La narrazione dell'origine nel mito non ha nulla di fondamentale. La narrazione dell'origine in filosofia è un fondamento. La filosofia è ossessionata sino dalla sua origine dal problema del fondamento. Quindi è significativo il fatto che il termine che parliamo di Aristotele perché più di Platone per una serie di motivi storici, Aristotele è stata la mediazione tra la svolta del pensiero occidentale dopo il il cristianesimo e le proprie radici greche. Poi Platone è poi arrivato, paradossalmente, perché invece il cristianesimo nasce dall'incontro di neoplatonismo e pensiero giudaico, ma poi nel corso dei secoli successivi, quando si stabilizza dopo il X secolo un pensiero più forte, anche filosofico, della cristianità, diciamo da Sant'Alberto in giù, forse da San Bernardo prima, non lo so, è poi Aristotele, perché le opere hanno arrivato così, perché era quello più sistematico, perché anche il più noioso, insomma, gli scolastici erano persone noiosissime, come anche i loro avversari, peraltro c'erano ben pochi, soltanto verso la fine del Medioevo qualcuno si divertiva, tipo il signor Rabelais in Francia, ma per divertirsi doveva pisciare sulla Sorbona, come fa, non mi ricordo più se Pantagruello o Gargantua, approfittando ovviamente della sua grande altezza, quindi era in grado fisicamente di poter pisciare sulla Sorbona, ma diciamo, mentre però questa orinata, che potremmo anche con un ardito volo congiungere con un analogo oggetto messo in moto da Marcel Duchamp nel 1914, con il nome di Fontana, era Rabelais che pisciava sulla, come dire, Sorbona, e se la prendeva quelli della Sorbona perché l'aveva maltrattato, poi di fatto. Ho già divagato e quindi sono già, non ce la farò ad arrivare su fondo. Allora, però il succo fondamentale è che qui, diciamo, nel pensiero greco c'è, come in tutta la filosofia, un pensiero della sostanza, cioè un pensiero, chiamiamolo sostanzialista, che è il pensiero che, diciamo, riguarda, che cosa serve la sostanza? Serve per spiegare il problema fondamentale della filosofia per tutti i greci, o per quasi tutti i greci, che è l'essere, spiegare ciò che è, ti esti, ciò che è fondamentale in ciò che, quindi è quello che noi chiamiamo l'essenza, quindi la sostanza è praticamente in qualche modo il substrato, la sostanza, il fondamento più o meno materiale, perché Aristotele si riferisce alla materia in primo luogo quando parla di hypokeimenon, alla, come dire, materia, e poi anche alla forma. I greci hanno una parola particolare per indicare questo tipo di materia, la materia originaria, la materia, è la ile, no? Ile, la ile, scritto ile, ile con la cosa. Quindi in questo caso non credo si metta l'H davanti. Quindi la sostanza è ciò che serve per spiegare l'essenza. L'essenza è il nucleo segreto delle cose. Nelle cose ci sono le apparenze e poi c'è un nucleo segreto. Questo nucleo segreto è l'essenza. La butto lì, proprio mi rendo conto, qualsiasi storico della tua filosofia mi tirerebbe le famose verdure, ma io lo dico lo stesso. Tutta la filosofia greca e tutta quella scolastica, con alcuni diciamo obiettivo, sino a Cartesio, è essenzialmente ontologia. Il centro della filosofia greca è l'ontologia. La domanda fondamentale, quella a cui tutte le altre sono subordinate, è che cosa c'è, perché ciò che è, perché c'è qualcosa invece di non esserci nulla. Tutto il resto è subordinato a questa domanda fondamentale. Cos'è l'uomo? Antropos, c'è un'antropologia, sia in Platone che in Aristotele, ma non è la questione fondamentale, non è il punto di partenza, non è la. Quindi c'è una chiarissima gerarchia per una lunga fase del pensiero filosofico tra l'ontologia e quella che potremmo chiamare invece il polo. Allora, l'ontologia è ciò che c'è, tu parlo dell'essere, di qualunque cosa. Poi tra tutti, diciamo, gli esseri ce n'è uno particolare che, guarda caso, è quello che sta facendo queste masturbazioni sul fatto di ciò che è e ciò che non è. E questo essere è l'antropos, siamo noi, è l'uomo. Quindi antropologia o gnoseologia, teoria della conoscenza, o epistemologia, teoria della conoscenza certa, sono termini diversi, ma mi accadrà e mi permetterete e mi scuserete se li uso. In prima approssimazione come diciamo, sinonimi. Quindi c'è la mia asserzione è nella filosofia antica e medievale c'è una dominante ontologica, c'è una dominanza della ontologia. L'epistemologia è subordinata, questa è la ragione per la quale nel pensiero greco non troviamo, per quanto scaviamo, andiamo a sfruculiare anche fra le righe di Platone, di Aristotele, di Protagora, che è l'unico dei sofisti di cui c'è rimasto qualcosa, di Epicuro per quel pochino che c'è, insomma di tutti, di Frangieri, cerchiamo e il tema, non emerge un tema del soggetto, non è un problema fondamentale il soggetto, è dato per scontato, certo siamo uomini, ci sono teorie su come è fatto l'uomo, la più importante per noi, quella che avrà influenze e influssi, è quella ovviamente di Platone, è il dualismo platonico, c'è un dualismo di Platone, l'uomo è, l'essere umano è un essere fatto di due sostanze diversissime che infatti confliggono tra loro, fanno casino, il famoso mito del carro con il cavallo che tira in alto, quello che tira in basso, sono il corpo, il soma e la psiche. Psiche era un termine che già usava Omero, ma era un termine materiale in Omero, che erano le ombre dei trapassati, sia nell'Odissea, nel viaggio che fa Ulisse, non so, ma sia ovviamente in quello che fa Enea nell'Eneide di Virgilio, che ovviamente è ricalcato, diciamo, su quello, diciamo, l'Averno latino, l'Ade greco, non sono niente di simile all'inferno, sì, sono simili all'inferno dantesco, perché giustamente Dante ha parlato di corpi e non di... però da un punto di vista teologico, sono puri spiriti, non sono puri spiriti questi cose, cioè, sia Odisseo che Enea li percepiscono, no, è vero che poi Odisseo cerca di abbracciare, eccetera, abbraccia il vuoto, perché sono corpi sottili, direbbe l'alchimista medievale, sono corpi evanescenti, ma sono in qualche modo corpi, non sono puri spiriti, mentre Platone ha un'altra composizione, Platone prende questo termine omerico e lo usa per indicare per la prima volta un principio, ma non si ferma più di tanto Platone a raccontarci perché, per come, cioè ci racconta il mito, dice il carro, colgato quello che va in basso, quelli che sono buoni vanno in alto, arrivano all'iperuranio, contemplano il mondo, stanno con gli dèi, bla bla bla, con gli dèi o col dio, e basta, chiuso. Non c'è una vera antropologia in Platone, come non c'è in Aristotele. Ci sono definizioni dell'uomo. L'uomo è un animale politico, dice Aristotele, praticamente è un animale che vive in, come dire, società. Naturalmente nessuno dice la roba fondamentale all'epoca, perché ancora non c'era una coscienza, insomma, che in realtà l'uomo è un animale linguistico, perché per essere politico deve prima di tutto essere linguistico. Beh, tutta la storia del linguaggio verrà dopo, verrà tardi, ovviamente ne parleremo anche nel corso di quest'anno, parlando di, come dire, Foucault. Ma quindi non c'è una teoria del cosoggetto, non c'è una, diciamo, antropologia. C'è invece un punto di vista fondamentale, diverso, ma diciamo che accomuna Platone, Aristotele, gli stoici, molti di questi, e lascia fuori pochissimi filosofi, che è, potremmo dire, sostanzialista, essenzialista e di tipo ontologico. Devo dire subito che questo forse c'è in tutte le tradizioni culturali, la mia ignoranza mi impedisce di fare degli opportuni confronti, ma insomma in quella occidentale c'è, se non sino dall'inizio, poco dopo, sino da quando comincia ad esserci però, c'è una corrente, una componente minoritaria della riflessione filosofica in Grecia che partecipa dello stesso problema, no? Si pone problemi analoghi, ma dà una risposta totalmente, diciamo, diversa, addirittura opposta, addirittura contrapposta e violentemente da un punto di vista concettuale contrapposta a quella del sostanzialismo, è quella che nella prima greca si indica col nome di scetticismo, la scuola della scepsi, della skepsis. La skepsis è la ricerca continua, estremizzando in qualche modo una sorta di approccio di metodo, metodologico, lo scettico eleva il proprio metodo, la propria cassetta degli attrezzi, avrebbe detto tanti anni dopo Foucault, a come dire, la fa venire in primo piano rispetto al problema della ricerca della sostanza. E attraverso questa metodologia della skepsis, cioè della inquiry, della ricerca continua, non della research, è una inquiry, la skepsis, si va lì e si sfoculia nei meandri del reale, si va a vedere, soprattutto si va a vagliare l'attendibilità delle risposte umane a questo problema della sostanza. E il filosofo scettico scopre, non con sua grande meraviglia, perché il filosofo scettico, se è scettico, vuol dire che aveva già deciso di affrontare quella via, ma con grande stupore di tutti gli altri che erano caduti nell'illusione propagandistica del più grande dei sofisti, che è Socrate, e di tutti i suoi discepoli a cascata, Platone, Aristotele, gli stoici, eccetera, eccetera, che gran parte delle affermazioni dei filosofi sulla sostanza sono infondate, non hanno fondamento, che la gran parte dei discorsi sul fondamento non si appoggia su nulla, e quindi, secondo la ormai famosa nota, scusatemi, abusata soprattutto da me, immagine, ma non posso esimermi dal ricorrervi un'ennesima volta, e quindi siamo tutti come il barone di Munchausen che cerca di tirarsi fuori dal pantano tirandosi per il codino. Ecco l'immagine che, diciamo, emerge del pensiero sostanzialista e universalista. Esistono le verità universali perché vanno bene, perché ci spiegano il mondo, eccetera, eccetera, da parte dello scettico. Lo scettico, attenzione, lo scettico, quando è intelligente, si guarda bene dal dire non esiste la verità. Come il vero ateo si guarda bene dal dire non esiste Dio. La verità come Dio sono un problema indecidibile. Questa è la vera posizione scettica e la vera posizione atea. Dal mio punto di vista, poi ci sono tante sfumature di ateismo, però io, siccome faccio professione ormai da una vita, posso anche permettermelo, visto la mia veneranda età, nel senso che non è che devo più, non devo più passare esami, invece non è vero, perché oggi questo per me ha il valore di un esame in qualche modo, si vedrà poi nel corso del seminario. Diciamo, il punto di vista scettico quindi dice: non esiste alcuna verità, non esiste alcuna asserzione dotata di portata di valore universale, ivi compresa l'asserzione che io sto facendo adesso. Quindi, ma attenzione, l'obiezione che il filosofo della domenica, insomma, il filosofo lettore del domenicale del Sole 24 Ore fa allo scettico quando gli dice: ma tu non puoi essere scettico perché se dici che non esiste nessuna verità assoluta, hai enunciato una verità assoluta. Voi capite che non regge, perché lo scettico si è già premunito. Ha detto: io non voglio dire, non dico affatto che non esiste una verità assoluta, dico non esiste nessun discorso che possa aspirare allo status di verità assoluta. E quindi dentro a queste cose c'è ovviamente compresa la mia stessa asserzione. Quindi sarebbe come l'ateo che afferma orgogliosamente Dio non esiste è ovviamente passibile della ovvia critica, ma se tu dici, anche se ovviamente insomma, l'argomento cosiddetto ontologico di Sant'Anselmo, che Cartesio riprende quasi pari pari nelle meditazioni filosofiche per metafisiche per dimostrare l'esistenza di Dio, è un ragionamento circolare, perché c'ha una, come dire, fallacia, perché presuppone che l'essere perfetto sia dotato di tutte le qualità, quindi anche di quella della esistenza. Il pensiero scolastico, così tanto svillaneggiato, oltre alla Cartesio, anche da me, da me io non conto un cazzo, insomma da un sacco di altra gente, eccetera, però qualcosa di buono ce l'aveva. Una cosa buona del pensiero medievale è che si guardava bene dal collegare strettamente l'essenza con l'esistenza. L'esistenza per un filosofo generale non faceva automaticamente parte della, cioè l'essenza non garantiva che qualche cosa esistesse, ok? Chiaro, no? Con Cartesio, facciamo un salto perché non si può, quindi nella prima parte del XVII secolo, nel 600, tra la Francia, l'Olanda e poi la Svezia, dove andò malauguratamente a morire il povero uomo, perché è così fondamentale e così importante Cartesio? Perché Cartesio è quello che inaugura la filosofia moderna e la inaugura con una cosa che non è, cioè, non è scritta nero su bianco, non è un programma esplicito, ma percorre tutta l'opera di Cartesio e in particolare le due prime opere, il discorso sul metodo e le meditazioni metafisiche di qualche anno dopo, la prima in francese e la seconda in latino, che sono quelle nelle quali lui espone i fondamenti della sua critica alla metafisica tradizionale e il tentativo di fondare una metafisica nuova, perché Cartesio vuole la pretesa di fondare una metafisica nuova. Ma dove sta il cioè, sono due le mosse, come dire, vincenti dal punto di vista strategico e tattico di Cartesio, vedremo poi quanto sono vincenti, ma insomma. Allora, la prima è quella di andare a, diciamo, a girare alle spalle l'avversario, cioè cosa fa Cartesio? Nel tentativo di minare definitivamente ogni atteggiamento scettico, ogni possibilità di posizione scettica, cioè che dimostri l'inconsistenza, l'impossibilità, l'inoperabilità di un diciamo, discorso veritativo, di un discorso che dice la verità nel senso dell'accordo tra la mente e il mondo, utilizza esattamente gli strumenti dello scettico, cioè utilizza il dubbio. Dice, con una però come dire, sostanziale approccio, insomma, con una sostanziale differenza rispetto a che ora poi vedremo, insomma, che è quello attraverso cui lui costruisce tutto, insomma, il suo cavallo di Troia. Però questa è la prima cosa. Quindi è un pensatore, diciamo, universalista, assolutista e quindi dogmatico, non in senso cattivo, nel senso che poi arriva a dei dogmi, cioè a delle verità, come dire, siano stabilite, che però lo fa facendo finta, almeno per un pezzo del proprio pensiero, sicuramente c'è dell'autobiografismo, lui lo è stato sicuramente, non voglio dire che diciamo, non lo sia, ma dal punto di vista della ricostruzione razionale del pensiero cartesiano, diciamo, il cosiddetto dubbio, diciamo, radicale che c'è sia nel discorso, che c'è meno ma più nelle menzioni metafisiche, è un trucco, volendo essere cattivi, un trucco neanche di ottima qualità, un po' di bassa lega, da illusionista, un po' così. Però facendo questo, cosa fa Cartesio? Il secondo, tutta la costruzione di Cartesio, come voi vedete, non parte, e lui a questo punto lo dice qua, io non ragiono come il geometra, come il matematico, geometria, che parte dai principi primi, cioè dagli assiomi della matematica, proposizioni, asserzioni ritenute talmente chiare ed evidenti da non richiedere dimostrazione, anche su questo poi tutta la logica successiva ha discusso secoli e secoli, che cosa significa questa cosa, insomma. Che ci vogliono dei punti di partenza o degli assiomi, non c'è alcun dubbio, per costruire una qualunque teoria, in particolare una teoria matematica, ma che questi assiomi si siano guadagnati, che i cinque assiomi dottrinali si siano guadagnati sul campo i loro galloni di assiomi perché sono più evidenti di altri, sappiamo bene che non è così, perché lo dimostra il quinto postulato su cui si sono arrovellate generazioni e generazioni di matematici nel tentativo di dimostrarlo, perché obiettivamente è un corpo estraneo dentro il sistema dei cinque, i primi quattro sono semplicissimi, poi arriva questa lunga sprodolata che dice no, ma se due rette stanno così, poi arriva l'altra che la taglia, un cazzo, ma non vi dico, cioè, che poi è stato semplificato, però nel testo di Euclide non è così, per un punto esterno ad una retta passa una sola parallela alla retta data. Però invece nella formulazione di Euclide è tutto, che è comunque equivalente. Quindi non è qui. Allora dice, non faccio così, perché parto, perché la cosa vincente di Cartesio è proprio partire dal dubbio non significa soltanto mettere in, diciamo, difficoltà l'avversario scettico, mi si potrebbe facilmente obiettare che non è questo l'intento esplicito e prevalente di Cartesio, non è che tutto il libro è fatto per polemizzare contro gli scettici e contro Foucault che sarebbe venuto, e contro Nietzsche e contro Foucault che sarebbero venuti secoli dopo, insomma, non è questo, però da un certo punto di vista l'orizzonte culturale tematico è questo. Però facendo questo, Cartesio opera in realtà la vera inversione fondamentale che fonda la modernità dal punto di vista filosofico. E qual è questa inversione? È che Cartesio non parte dai principi primi dell'essere per dedurre qualche cosa, ma parte dal polo opposto, parte dalla conoscenza umana, dal modo in cui l'uomo conosce, e tenta prevalentemente di costituire questa conoscenza come una conoscenza certa, quindi come una epistemologia, episteme, la conoscenza certa, che non è né doxa l'opinione, né praxis l'agire, ma è la conoscenza, la conoscenza teorica, generale e sicura, solida come una roccia. Quindi, il punto di partenza di Cartesio, non solo il punto di partenza, ma la fondazione della filosofia cartesiana sta nella epistemologia. Ecco perché Cartesio è giustamente considerato come il fondatore della nozione e del concetto moderno di soggetto. Ecco perché i greci non gli interessava, non avevano, non era rilevante, era un'altra loro preoccupazione, era ontologica. La proposta di Cartesio è epistemologica, fondare, soltanto fondando saldamente, lui insomma pensava, la conoscenza si può poi ricostruire una ontologia. E Cartesio ce l'ha una ontologia, mica con leggerina, ha una ontologia pesante perché terza innovazione. Con Cartesio si rifiuta di pensare che ci sia un'unica sostanza. È questo che gli rimprovererà il suo contemporaneo Spinoza, l'orologiaio ebreo di Amsterdam, perseguitato tanto dagli ebrei quanto dai cristiani, perché aveva dovuto far finta come tanti di convertirsi. Lui in realtà non era né ebreo né cristiano, ma era giustamente, io direi ateo, i più buoni dicono panteista, ma è più o meno la stessa cosa, insomma, il panteismo rigoroso non è altro che ateismo, insomma. Se Dio è il nome che voglio dare all'insieme delle possibilità dell'universo, gli si può pure dare il nome di Dio, ma non c'entra nulla con il Dio della, diciamo, tradizione platonica e poi dopo cristiana. Non c'è una sola sostanza per Cartesio, come c'era stato per Aristotele, eccetera, la substanzia, la ile, la materia originaria, o lo tipo canon, ciò che sta sotto il panello. Sono due le sostanze, sono due, le due res, le due cose. Adesso non posso farvi, ma comunque sono molto belle, anche, è un libro molto breve, nonostante qui praticamente metà è di una bellissima introduzione che spiega tutto la cosa, poi c'è il testo francese, il testo durante latino a fronte, sono 80 pagine, 90 pagine in tutto nelle meditazioni filosofiche. E c'è questo itinerario molto chiaro che porta appunto Cartesio alla, dice lui, la roba di Cartesio è molto semplice, io dubito di tutto, dubito di tutto, dubito di tutto, ma fa indietro, arretra, dice accidenti, che cos'è che lo salva dall'abominato per i greci, per Aristotele, regresso all'infinito, cioè il fatto di dover continuare a giustificare una cosa con qualcosa che gli sta dietro, e quindi ci perdiamo, e quindi c'è quello che i greci chiamavano lo apeiron, cioè l'indeterminato, ciò che non si può determinare, l'infinito nel senso di infinitabile, infinito, cioè non quello che è un finito che è già dato, ma la continua ripetizione, la ripetizione, diciamo, l'infinita ripetizione, avrebbe detto Deleuze. Che cosa lo salva? Lo salva il fatto, la famosa formula che non c'è nella meditazione ma nel discorso sul metodo, il cogito ergo sum, cioè il fatto di, io dubito di tutto, dubito dei miei sensi, dubito della ragione, non c'è nulla, cioè non c'è nessuna delle mie asserzioni che possa essere valutata come realmente fondata, ma di una cosa non posso dubitare, del fatto che sto facendo tutte queste operazioni. La formula che si usa nelle meditazioni è invece diversa, è ego sum, ego existo, io sono, io esisto. Che cosa vuol dire io sono, io esisto? Attenzione, che se ne dice una cosa del cogito ergo sum, uno capisce, penso, dunque sono. La variante delle meditazioni è io sono, io esisto, è l'unico vero attacco. Cartesio ha creduto di demolire la filosofia scolastica, invece per molte cose ha preso le vecchie robe, le ha semplicemente cambiato nome, eccetera, eccetera. Ma in questo effettivamente è vero, Cartesio si distanzia dalla tradizione, insomma, scolastica, no? La tradizione scolastica, abbiamo detto, non avrebbe mai sognata di confondere l'essenza con l'esistenza. Un ego sum, un io sono qualcosa, non avrebbe avuto come conseguenza automatica ego esisto, io esisto. Invece per Cartesio sì, Cartesio è più interessante questa delle meditazioni che quella del cogito, che è la più famosa, perché ci fa vedere questo, che c'è questa, sono un po' pesante, questa incestuosa e unione contro natura di essenza ed esistenza. Perché dico incestuosa? E perché dico che non mi piace? Perché naturalmente ogni identificazione dell'essenza con l'esistenza è, ci possiamo arrivare tutti, una implicita limitazione delle possibilità del pensiero umano e contemporaneamente della natura, ma chi l'ha detto che le cose perché sono debbano anche esistere? La nostra mente è piena di cose che ci sono nella nostra mente ma non esistono, e la stessa natura è piena di cose che non ci sono, non sono esistite fino a un certo punto e sono esistite da un certo punto in poi, Darwin ci ha spiegato questo, che le specie nascono e muoiono, c'è una storia anche nella natura, quindi c'è un possibile anche nella natura, c'è un range, c'è una capacità di variazione anche nella natura. L'identificazione di essenza con esistenza, al di là di tutte le ottime, buone intenzioni di Cartesio, in realtà è una limitazione dell'attività, non dico del solo pensiero, dell'attività umana e della vita. Quindi teniamo a mente questi tre punti e andiamo rapidissimamente. Quindi sono due, no? Andiamo due punti. Quindi sono due le sostanze, cioè la res cogitans, la cosa che pensa, e la res extensa, la cosa estesa, che è la materia. Sarebbe sbagliato dire che Cartesio è un materialista della domenica, è uno spiritualista della domenica, nel senso che è materialista per tutti e sette i giorni della settimana, e poi la domenica però arriva al cogito, arriva la res cogitans, arriva qualche cosa che non è riducibile. Ovviamente Spinoza, che era peggio universalista con Cartesio, però perlomeno era conseguentemente materialista, cioè si rifiutava di pensare che ci fosse più di una sostanza, e quindi c'erano tanti modi della sostanza, ma la sostanza unica, era tanto unica che l'ha potuta persino chiamare Dio, e questo non ha ovviamente impedito ai bravi cittadini cristiani ed ebrei di Amsterdam di accusarlo di ateismo, come tutte le persone per bene sono sempre state accusate, credo, da quando pensano. Quindi va, lui ha posto. Bene, quindi allora, questi sono i punti di Cartesio. E lo scetticismo, accidenti, Pirrone non ha Pirone, che è il più famoso, non ci sono rimasti i suoi scritti, ma insomma pare sia stato il fondatore di questa scuola scettica greca nell'antichità. Pirone non ha eredi non c'è un giudice a Berlino, non c'è un Pirone a Parigi, non c'è un Pirone a Düsseldorf, no, a Parigi e a Düsseldorf no, ma nel Regno Unito sì. Non propriamente in Inghilterra, cioè qualcuno in Inghilterra, ma più in Scozia e in posti del genere. In Inghilterra fiorisce una variante, insomma una in qualche modo, negli pochi anni dopo Cartesio, cioè meno di un secolo dopo, fiorisce una robusta scuola che rinverdisce la tradizione degli scettici. È il cosiddetto empirismo inglese. I tre protagonisti più importanti, come vi ricorderete dalle vostre studi liceali, sono Locke, Berkeley e Hume. Io voglio brevissimamente parlare di Hume perché dal mio punto di vista è il più interessante. Questo cosiddetto empirismo è un universalismo, non è anti-universalista, cioè pretende anch'esso di scoprire delle leggi generali, cioè, quindi in questo senso è poco scettico, però passa in esame tutte le argomentazioni dei filosofi che alcuni secoli dopo si sarebbero chiamati continentali, perché quasi tutti del continente, i quali in questo Cartesio, Spinoza, Leibniz e tutti gli altri, insomma, sono accomunati da una sorta di priorità, cioè nella Cartesio, Leibniz, che cosa individuano come strumento fondamentale dal punto di vista epistemico, epistemologico per la conoscenza umana, individuano la ragione. Senza la ragione l'uomo non arriverebbe a... e invece, in maniera diversa, Locke, Berkeley e Hume colgono in questa supremazia, in questa priorità data alla ragione come strumento conoscitivo, una debolezza, perché dicono: la ragione in realtà è uno strumento, adesso la faccio, insomma, diciamo troppo potente da un certo punto di vista, avrebbero detto i matematici successivamente, cioè, troppo potente, ha troppe possibilità e soprattutto non le sa gestire. La fonte della conoscenza deve essere qualche cosa, per questi filosofi, di più, virgolette, modesto, ma di più che ancori di più l'uomo col mondo, insomma, e quindi sono i sensi, e quindi Locke conia, credo, non so, conia o riprende la famosa formula: nihil est in intellectu quod prius non fuerit in sensu, nulla sta nell'intelletto che prima non sia stato nel senso. Questi cosiddetti empiristi non negano che ci possa essere la, diciamo, ragione, che si possa utilizzare la ragione, ma per loro, più che il termine che usano prevalentemente è intellect, il termine reason, sono su inglese, quindi scrivono in inglese, Hume è come scozzese, non scrive in inglese pure lui, il termine reason non viene, diciamo, usato, il termine è intelletto, il che sarebbe in tedesco Verstand, quindi non la Vernunft, diciamo distinzione fondamentale per Kant, ma anche prima, insomma. Quindi è l'intelletto, e l'intelletto cos'è? È un semplice elaboratore dei dati che arrivano dai sensi, ma i dati arrivano già dai sensi. Ora però, mentre Locke è singolarmente moderato, cioè trae poche conseguenze, diciamo, da questa scelta sensista, chiamiamola di fondo, mentre Berkeley trae delle conseguenze ma radicali in un senso un po' bizzarro, perché è un empirista idealista, cioè la sua sopravvalutazione o ipervalutazione dei sensi lo porta a negare di fatto l'esistenza del mondo e a affermare qualche cosa di simile al fatto che il mondo sia una sorta di creazione, in qualche maniera, di un soggetto sensibile che ha i sensi, e poi vabbè, dietro ancora di Dio. Fra i tre, quello che più radicalmente di altri invece si dimostra in grado di utilizzare questa, che è un'arma molto potente, quella del sensismo e della, diciamo, del diciamo, rimanere attaccati all'esperienza, per mettere in crisi, demolire o comunque indebolire le costruzioni ontologiche, ma soprattutto epistemologiche, dei, chiamiamoli, razionalisti, per farla prima, dei continentali, diciamo del filone Cartesio, Spinoza, Leibniz, in qualche modo, sono diversissimi, però insomma in questo erano comunati. Le conseguenze che ne trae Hume sono molto importanti, perché Hume praticamente scardina, decostruisce, si potremmo dire, destruttura, delegittima tutte le costruzioni concettuali sulle quali il pensiero metafisico tradizionale, quindi rinnovato secondo la linea, diciamo, cartesiana, ma sempre in qualche maniera metafisico, si era, come dire, basato. Quindi scardina il principio di causalità, perché si spiega che non, cioè, questo scardinamento avviene in che modo? Avviene nel senso che tutte queste strutture a cui il pensiero continentale assegnava una sostanza ontologica, erano reali proprietà del mondo o reali proprietà del rapporto uomo-mondo, sostanzialmente c'era della ciccia dentro, dietro a queste parole, dietro al termine mondo, eccetera. C'è della carne, c'era, è vero, sono cose reali. E invece Hume dice no, sì, ci sono, si può fare, certo, tutti noi agiamo come se ogni cosa che avviene, ogni evento, ogni libro che cade è l'effetto di qualche causa, in questo caso la forza di gravità. Tutti noi facciamo così. Ma questa associazione che noi facciamo non ha nulla di fondato, non è radicata nel mondo e non è neanche radicata nel nostro modo di funzionamento, se non nel fatto che noi sappiamo che ogni volta che prendiamo un libro, prendiamo un certo oggetto e apriamo le manine, questo oggetto cade. E allora, siccome l'abbiamo visto tante volte nella vita, abbiamo associato questo evento, aprire le mani, con l'altro evento, l'oggetto cade, diciamo, l'aprire le mani è la causa di questo. Ma dove sta la causa, dice Hume? Ma dove la siete inventata? La possiamo chiamare causa, ma non c'è alcuna sostanzialità, non c'è una forza cogente, non c'è una necessità. Oh, non c'è una necessità, non c'è necessità. Le filosofie continentali a quell'epoca sono tutte largamente Leibniz, filosofie della necessità. È il necessario quello che è importante. L'empirismo ha dal suo di buono, chiedo scusa, ma insomma capite che questo è un corso partigiano, cioè io prendo posizione, dico le mie posizioni, poi ognuno è libero di pensarla come vuole, ma insomma diciamo allora la forza per me dell'empirismo sta invece nel fatto che l'empirismo è un pensiero della possibilità, diciamo l'empirismo, e tanto più l'empirismo più scettico di tutti, che è quello di Hume. Quindi non esiste il principio di causalità, ma non esiste neanche l'io. All'epoca non si usava il termine io, era usato ancora il termine sé, il self, è un'abitudine, è una, l'io non è altro, dice Hume, che un fascio di impressioni. Hume dice, i contenuti mentali sono di due tipi, sono impressioni e idee. Ma che cosa sono le idee? Dice Hume, non sono nient'altro che l'effetto che ci lasciano alcune impressioni che sono più forti di altre. Non c'è nessuna, la fonte sta tutta lì nell'impressione. Tutte palle che ci siano le idee nel senso di cose, sono semplicemente delle tracce, degli effetti, delle impressioni sensoriali che noi abbiamo avuto. Poi fatte in vario modo, costruite in vario modo. Ecco quindi perché Hume. Vabbè, qui ragazzi siamo messi male, quante. Vediamo se ce la faccio a darvi, perché poi lui deve parlarvi delle cose più fondamentali, perché questo, allora secondo me è impossibile capire bene Foucault se non si fa un po' di percorso lì, però insomma è anche vero che poi Foucault non è che si confronta con Hume, Kant si confrontava con Hume. Allora, arriviamo a Kant. Perché Kant? Perché Kant introduce, cioè da splendore a quattro termini, diciamo, che sono importanti, e che poi vedremo che Foucault utilizzerà. Tutte queste cose che vi dico adesso sono state scelte in modo da essere utili per, cioè ho cercato di diciamo tirare fuori prevalentemente le cose a cui in qualche maniera anche in modo non esplicito si riferirà successivamente Foucault. Allora, la fondazione, come con il Cartesio, un secolo e mezzo prima, anche Kant si propone in qualche maniera di rifondare il pensiero, però Kant, cioè, dalla sua, insomma, di, come dire, il piccolo passetto avanti che fa verso Cartesio, è che, almeno nelle intenzioni, non è così attaccato alla metafisica come lo era Cartesio. Quindi, cioè, la metafisica possiamo farne a meno. Perché, dovete notare, questo non sono in grado di dirlo, ma lo dico adesso, sia in Cartesio che in Kant, in tutta la filosofia moderna, la filosofia moderna ha una causa, ha tante cause, ma insomma una causa che non vi ho detto e che sarebbe bene, di cui sarebbe bene invece tenere conto, è senza nessuna spiegazione, senza fare uso di, come dire, marxismo volgare, ma di semplice buon senso, dice uno, dice vabbè, ci sarà una qualche ragione per cui tutto tocca, cioè finisce il Medioevo, eccetera, e arriva all'inizio dell'epoca moderna. Allora, non è un caso, naturalmente, che, diciamo, fra XVI e XVII secolo, anche un po' prima, insomma, ci abbiamo la scoperta del mondo, cioè la ricopertura ad opera di aggeggi costruiti dall'uomo, dei navi, di tutto il globo, che il globo smette di essere fatto metà era noto, metà non era noto, viene conosciuto tutto. C'è il crollo da un punto di vista concettuale del sistema, diciamo, tolemaico, della cosmologia che vedeva la Terra al centro della Terra, e c'è invece tutto quello che sapete già perché a scuola ve l'hanno detto, e c'è la... e c'è... ho perso dal film, insomma, la scoperta della stampa, quindi c'è la scrittura che acquisisce. Insomma, sono tutto un insieme di cose, ma fondamentalmente, per quanto riguarda la filosofia, c'è il fatto più importante, la conseguenza più importante di tutte queste cose strutturali, insomma, diciamo, economiche, sociali, eccetera, eccetera, è che a livello del pensiero comincia un percorso di differenziazione del sapere. Il sapere, sino a tutto, per tutta l'antichità classica, per tutto il, come dire, Medioevo, è articolato, certo, ci sono le discipline, eccetera, ma è un tutto unico. Non ci sono filosofi, scienziati, sì, gli artisti, chi ha filosofi, scienziati, medici, cioè, per capire la filosofia greca, leggere Ippocrate è... o anche Galeno, è altrettanto interessante che leggere Aristotele, e infatti Foucault farà così anche in molte delle sue opere, soprattutto tardi. Questa differenziazione porta ad un evento fondamentale, alla nascita di quella che si chiama la scienza. Non che non ci fosse scienza nel pensiero precedente, i greci avevano una scienza. Aristotele scrive un libro chiamato Fisica, un altro chiamato Del Cielo, dice le robe, eccetera. Ma la fisica aristotelica, quella che era rimasta più o meno aristotelica, perché era quello che l'aveva espressa in modo più chiaro, c'era una sola eccezione: la matematica sembrava, come dire, non avere uno statuto lievemente diverso, e in effetti è l'unica scienza umana cumulativa, cioè non ha mai conosciuto cambi di paradigma, rivoluzioni, diciamo teorie incompatibili con quelle precedenti. La matematica è sempre stata un ampliamento, ha sempre ampliato poco a poco il campo di indagine, oggi è diventata una roba mostruosa, fatta di 10.000 campi diversi che nessuno può sensatamente padroneggiare, non dico per la loro totalità, ma neanche... cioè neanche per un settore consistente, non c'è nessuno oggi che conosce tutta l'algebra, che è esperto di tutta l'algebra che si studia oggi nel mondo, perché l'algebra omologica, l'algebra differenziale, sono tutto un sacco di piccoli campi, tu cosa fai? Algebra omologica, cioè, okay, fai quella roba lì. Se gli parli di analisi matematica, questo non sa un cazzo, calcolo delle variazioni, non, come se non fosse, cioè è una roba veramente. Allora, cioè, torniamo a Cartesio. Sia Cartesio che Kant, quindi, sanno che la filosofia ha un cos'è? Un compagno di viaggio, un avversario, un modello? Sicuramente è un modello. La certezza, con la formula famosa di Galileo, le sensate esperienze e certe dimostrazioni, la costruzione che sulla strada aperta prima di Galileo, da parte da Galileo principalmente, Newton elabora un sistema complessissimo che sono i principi matematici della filosofia della natura, insomma il libro in cui si espone la nuova teoria, come dire, newtoniana, e la scienza d'un botto, come dire, nasce un sapere che è separato dalla filosofia, che non si occupa più, attenzione, che è ontologico, non è epistemologico, è l'erede della vecchia filosofia perché si occupa dell'essere, ma non si occupa più dell'essere come se ne è occupata la filosofia, cioè non va più alla ricerca delle cause, non gliene frega niente al fisico delle cause. Io prima ho usato il termine in maniera un po' impropria. Filosoficamente si può dire che la forza di gravità è la causa dell'evento della caduta del libro, ma in realtà non troverete, è presupposto, diciamo, ma lo scopo del fisico è semplicemente quello di descrivere nel modo più accurato e preciso possibile il moto di questo oggetto da questa quota a quest'altra. Quindi le equazioni, la descrizione, la scienza moderna, la fisica moderna, inaugura una ontologia descrittiva, quindi non una ontologia causale, ma pur sempre un'ontologia. E siccome il grado di descrizione, il grado di precisione della descrizione della fisica è incomparabile, cioè, voglio dire, Aristotele ci fa la figura del cretinetto, quello che scrive questo, che ci sono le quattro sfere, le quattro sostanze, quindi la pietra cade perché la terra, perché ci vuole ricongiungere la sfera della terra, il fuoco sale per la sfera del fuoco, giustamente tutti voi sghignacciate come quando dovete parlare di flogisto, ammesso che sappiate cosa era o che cosa è stato per un periodo. Però va bene, quindi questo però fa sì che la filosofia abbia improvvisamente un cazzo, devo fare delle robe che abbiano altrettanta certezza. Il vecchio termine epistemologia, episteme, la conoscenza certa, la conoscenza razionalmente fondata, ciò che si raggiunge, quindi la matematica di fatto, acquista improvvisamente un altro, come dire, significato. La filosofia deve tenere conto del fatto che c'è questa questo altro campo del sapere che è concorrente e contemporaneamente però rappresenta un modello, che è, diciamo, la scienza. Quindi tutti e due, mentre Cartesio ovviamente illusoriamente pretende di costruire una metafisica che abbia il rigore della scienza in qualche modo, Kant rinuncia a questa cosa e dice ma non si può, non esiste, non è un obiettivo perseguibile, non ci può essere, si può costruire. E quindi Kant cosa fa? Da un certo punto di vista è erede di Cartesio perché approfondisce diciamo il suo approccio gnoseologico, epistemologico, conoscitivo, è il lato dell'io, è il lato del soggetto, è il lato della gente che riflette e descrive il mondo che viene descritto. La filosofia di Kant è principio, quindi è i titoli delle tre opere fondamentali di Kant dimostrano abbastanza bene questo. Critica, estremamente critica della ragion pura, della ragion pratica, del giudizio, della forza, della capacità di diciamo, giudizio sarebbe letteralmente, Urteilskraft. Tre, ragione pura, ragione pratica, giudizio sono tre facoltà dell'uomo, è l'essere umano, è il soggetto. La filosofia di Kant è una ulteriore fondazione, molto più precisa, molto più articolata, molto più astuta, molto più abile, di quanto non fosse quella cartesiana, del soggetto. E quindi come Newton, o meglio i newtoniani, avevano sconfitto sul campo, in grosso modo all'inizio del Settecento, cioè durante il Settecento, i cartesiani, perché per tutta la seconda metà del Seicento la fisica europea è cartesiana, cioè Cartesio è un scienziato, che filosofo, scrive un sacco di libri, non solo sulla metà, ma ha una teoria, teorie che noi adesso consideriamo bizzarre, ma dal suo punto di vista molto più materialistiche di quelle di Newton. Per esempio è una fisica che prevede l'azione a contatto. Se io non tocco i corpi, non si toccano, non ci può essere azione. La teoria di Newton, sapete tutti, è una teoria terribilmente metafisica, perché fa appello a una roba misteriosa chiamata azione a distanza, la forza di gravità, che è la forza di gravità? È come l'alchimia, come le robe, che è una roba, le masse si attraggono, ma che dici? Si attraggono perché? Cioè, e lui ti risponde, non me ne frega niente perché io ti dico F uguale K M1 M2 fratto R quadro e sono a posto, perché ti ho descritto il modo in cui si attraggono. Ma l'ipotesi che c'è dietro, la metafisica influente, direbbero gli epistemologi del XX secolo, i popperiani, che c'è dietro, dimostra che in realtà tu hai dentro di te, cioè non si potrebbe sostenere la tua fisica se non ci fosse dietro questa fisica. Bene, come la fisica cartesiana viene sconfitta dalla fisica newtoniana, così rapidamente nel corso dell'Ottocento la filosofia cartesiana viene sconfitta da quella kantiana, che rappresenta all'interno dello stesso ambito di interessi un modello molto più forte. Su cosa si basa rapidissimamente la teoria del soggetto kantiano? Si basa su due cose altrettanto e forse ancora più geniali di quelle che vi ho detto prima di Cartesio. Si tratta di un incrocio inedito e diverso delle due coppie fondamentali, conoscitive, analitico-sintetico, a priori, a posteriori. Non è difficile da capire, cioè le conoscenze a priori sono quelle che non necessitano dell'esperienza, per esempio le conoscenze logiche, se A uguale B e B uguale C, allora A uguale C è un principio della logica, non occorre che io abbia fatto alcuna esperienza concreta per dire questo e quello. Idem, si credeva prima di Kant, tutti pensavano prima di Kant, che anche la matematica fosse una conoscenza di tipo analitico, vedete che invece Kant era, di tipo a priori. Mentre le conoscenze a posteriori sono quelle che richiedono l'esperienza. Le conoscenze analitiche sono quelle che non aggiungono alcun contenuto nuovo alla conoscenza, quindi come sempre la logica. La logica non aggiunge, se io faccio un sillogismo, la conclusione del sillogismo è già contenuta potenzialmente dentro le preambole. Tutti gli uomini sono mortali, Socrate è un uomo, Socrate è mortale. So qualcosa di Socrate più di quello che non so più? No, so le stesse cose che sono. Quindi è analitico. Sintetico invece sono quelle che derivano, sono quelle che aggiungono in qualche modo, finito quel certo percorso io ho una conoscenza maggiore di quella che avevo prima. Nella tabella tradizionale dell'incrocio analitico sintetico a posteriori a priori, se c'era lavagna vi facevo lo schemino che peraltro faccio a tutti i miei allievi del corso di estetica a un certo punto, perché non sanno Kant, quindi bisogna, non gli posso fare l'estetica di Kant se non gli spiego vaghissimamente almeno anche la gnoseologia. Ci sono due caselle piene e due caselle vuote. È molto facile, è molto semplice identificare l'analitico con la priori e il sintetico con la posteriori. Siamo tranquilli. E la genialità di Kant è quella di dire non è affatto vero. Una casella rimane vuota, naturalmente non ci può essere nessuna verità analitica a posteriori, ma una conoscenza sintetica a priori ci può essere, e qui è il colpo di genio di Kant, che stacca la matematica dalla logica e la mette in quest'altra casellina. Certamente la matematica è una conoscenza a priori, perché non parla di, ma Non è vero che non ci dice niente di nuovo. Io dico, c'è un triangolo, c'è un triangolo. È vero che il fatto che la somma dei suoi angoli interni sia di due angoli piatti, cioè di 180 gradi, è una verità necessaria e discende necessariamente dalla parte. Ma se io non ci riflettevo prima, se qualcuno, in particolare Euclide, non mi dava la dimostrazione di questo teorema, io non lo sapevo che la somma degli angoli interni di un triangolo è 180 gradi. Quindi non è vero che la matematica non aggiunge, la matematica aggiunge, quindi è una conoscenza a priori, ma non è analitica. L'unica conoscenza che rimane analitica a priori è di fatto la logica, di fatto non c'è altro che quella. Sono soltanto le leggi, la conoscenza delle leggi generali del pensiero. Perché fa questo, diciamo, passaggio, diciamo, Kant? Perché il suo programma, il suo progetto è quello di riuscire a fare a meno della dicotomia sensi-intelletto. Come fa? Non lo fa sensibilizzando l'intelletto, ma intellettualizzando i sensi, e quindi dicendo delle cose molto interessanti, che oggi consideriamo quasi ovvie, ma che per l'epoca furono, e cioè dicendo: guardate che i sensi non funzionano. Adesso lui non sapeva nulla, delle conoscenze di neurofisiologia ovviamente dei tempi di Kant sono neanche paragonabili a quelle che abbiamo adesso, insomma. Però c'è una, in qualche maniera c'è una premonizione. Non pensate che il ruolo dei sensi sia quello di registrare passivamente ciò che abbiamo di fronte. I sensi hanno una capacità attiva, invece, sono essi che organizzano quello che noi chiamiamo il mondo, insomma. Hanno una, quindi non è la conoscenza sensibile, non è una conoscenza passiva, ma è una conoscenza attiva, e questo però va incrociato, adesso vedremo in che modo e in che senso, però con un'altra, diciamo, innovazione radicale. Kant, per fare questo, deve ovviamente rinunciare ancora più radicalmente di quanto non abbia fatto, diciamo, Cartesio, ha una ontologia forte. Kant di fatto rinuncia alla ontologia, perché dice, non nega che esista una, diciamo, realtà, non è come Berkeley che dice siamo noi che creiamo il mondo, o meglio è Dio che crea il mondo, e noi come tanti piccoli dei, bla bla, e quando distogliamo lo sguardo l'altro scomparirebbe l'altro che abbiamo guardato fino ad ora, se non ci fosse l'occhio di Dio che lo vede, e quindi è quello che va distretto. Non è così estremista Kant. Però dice ciò che sta fuori di noi è qualche cosa che sì, possiamo pensare che, come dire, esista, ma non è assolutamente, non può essere sistematicamente, per principio, non può essere oggetto di conoscenza. È qualcosa che lui chiama noumeno, il nous, cioè il nous, cioè una messa, qualcosa, è lì, sta lì, è una sorta di nucleo segreto, ma inattingibile. Tutto ciò con cui noi abbiamo a che fare, dice Kant, sono dei fenomeni, sono delle cose, e nel campo del fenomeno, attenzione, siamo noi che strutturiamo il modo in cui vediamo i fenomeni. Ovviamente Kant è un universalista, quindi non si azzarda, non solo pensa che tutti gli esseri umani vedano lo spazio e il tempo nello stesso modo, ma addirittura pensa che l'unica geometria possibile sia quella di Euclide, mentre negli stessi anni tutti quanti sapete che alcuni matematici pazzi in giro per l'Europa stavano studiando geometrie non euclidee, che hanno un contenuto, che sono incompatibili con la nostra esperienza sensibile, ma non con il nostro intelletto, quindi sono concepibilissime. È un'altra delle dimostrazione del fatto che il possibile non va, come dire, tenuto così sotto il gioco dell'esistente o del cosiddetto, o che il necessario a volte non è così necessario come noi crediamo, e addirittura si potrebbe sostenere, essendo particolarmente radicale, che il necessario proprio non esiste. non ce ne sono di cose necessarie, se non tutto è dovuto a una concatenazione di abitudini. Allora, i due passi tattici fondamentali di Kant sono dichiarazione di inconoscibilità del nucleo del reale, quindi fenomeno, diciamo, noumeno, e ardito intreccio tra analitico-sintetico a priori a posteriori. Questo significa che i sensi hanno una facoltà conoscitiva attiva e non passiva, che è l'intuizione, e l'intuizione sensibile, quindi i due strumenti, le due modalità fondamentali dell'intuizione sensibile, cioè lo spazio e il tempo, non sono delle proprietà oggettive dei fenomeni, ma sono delle proprietà oggettive e universali, ma del, diciamo, soggetto. Come ben capite, si tratta di una rivoluzione a metà, perché Kant non fa il passo che avrebbero fatto alcuni poi nel, come dire, Novecento, e non ci dice che un Papua vede il mondo con occhi diversi e con un senso del tempo e dello spazio diverso da quello dell'uomo bianco occidentale. Non avrebbe potuto dirlo, perché se si fosse pensato questo, il diritto dell'uomo bianco occidentale a sterminare il Papua si sarebbe fortemente indebolito. Quindi occorrevano degli strumenti per... in sintesi. Questa dimensione degli strumenti con i quali il soggetto pensa il mondo, Kant la chiama, riesumando un vecchio termine della filosofia scolastica a cui cambia significato, la chiama trascendentale. L'io di Kant è un io, il soggetto di Kant è un io trascendentale, quindi è un io che non è l'io psicologico, è una sorta di struttura, di caratteristica, di particolarità universale che hanno tutti quanti gli uomini e che lui chiama trascendentale. Perché la chiama trascendentale? Qual è il, diciamo, significato del termine in Kant? Usando trascendentale e non trascendente, allora Kant non usa immanente, perché dice, se, diciamo, l'immanente per Kant è ciò che sta al livello del puro gesto, del puro atto, del puro gesto dell'esperienza, del puro materiale esperienziale. Il materiale esperienziale è immanente. Le elaborazioni concettuali, cioè i tre grandi concetti non giustificati ai quali si arriva alla fine della critica della ragion pura, cioè il concetto di Dio, quello di anima e quello di mondo, quelli sono trascendenti, perché ho fatto un salto, sono passato dal piano dell'esperienza pura e semplice a un piano diverso, sia pure soltanto all'interno del pensiero. Ma in mezzo c'è una dimensione nella quale, vuol dire, che in qualche modo è quella che per Kant, naturalmente, è la cerniera tra questi due mondi. La cerniera tra questi due mondi è l'attività conoscitiva del, diciamo, soggetto, possiamo chiamarlo dell'io, in termini dell'io penso, e l'io penso cartesiano è un termine che Kant usa, diventa quella che poi lui però preferisce chiamare la coscienza trascendentale, cioè il fatto che l'uomo è cosciente, cioè non solo pensa, ma è cosciente di, come dire, pensare, ma c'è un livello trascendentale a tutti i livelli cognitivi, anche a livello sensibile. C'è un trascendentale dei sensi, che sono le due categorie di spazio e tempo, c'è un trascendentale dell'intelletto, che sono le tradizionali categorie di Aristotele riarrangiate in un modo un po' più, virgolette, scientista. E insomma, quindi, trascendentale è quel tratto di scala che va dall'empirico al trascendente, l'empirico, quindi, che non vuol dire trascendente nel senso tradizionale religioso, vuol dire trascendente sempre nell'ambito umano, cioè, però mentre i concetti dell'intelletto Kant diciamo come distingue tra intelletto e diciamo ragione, così distingue tra concetti e idee. Adesso per esempio qui bisogna fare attenzione perché ogni filosofo ha la sua diavolo di terminologia. Quindi per esempio per Hume le idee sono quelle che Kant chiamava concetti, non ci possiamo fare nulla, non ci possiamo pigliare della collottola e fargli l'editing, anche perché poi Kant viene un po' dopo Hume, insomma, quindi, e quindi dobbiamo tenerci purtroppo questa cosa così com'è. Allora però diciamo quindi empirico trascendente, il trascendentale, cos'è il trascendentale? Che cosa, di cosa si occupa il livello trascendentale? Non delle singole conoscenze, le singole conoscenze sono o quelle empiriche o quelle intellettive, razionali, ma sono descritte dalle singole scienze, dalla matematica, dalla fisica, dalla chimica, eccetera, eccetera, o da altre scienze che potessero venire fuori da noi. Il trascendentale si occupa delle condizioni alle quali la conoscenza può avvenire, cioè il trascendentale è il livello dello strumento che il soggetto usa per operare, per fare gli atti di, diciamo, conoscenza. Ma mentre la cassetta degli attrezzi di cui parlerà Foucault e che è tipica un po' di tutta la tradizione scettica, voglio dire, è una vera cassetta degli attrezzi, cioè è una scatola, pigli, una volta devi stare con un martello, pigli la cucinaia, la è molto, come dire, è molto pregna di senso del possibile. Il trascendentale di Kant è un po' limitante. O mangi questa finestra o salti questa finestra. O sai spazio e tempo o non sai un cazzo d'altro. Non solo, nello spazio o usi la geometria di Euclide oppure Ciccia, non c'è nient'altro da fare. Quindi è una, come dire, sì, certo, è un ruolo attivo del soggetto, non passivo, eccetera, ma l'universalismo, cioè l'uniformazione che dà la neurologia kantiana, è in qualche modo, se non ricrea una metafisica, ricrea le condizioni per una fisica. E infatti molti degli allievi scomparsi dalle cronache delle storie della filosofia, ma i primi allievi di Kant, erano dei grandi metafisici, perché prima delle cose di Kant è abbastanza semplice pigliare le intuizioni di Kant, che nelle sue opere sono complicatine, ma insomma piene, e irrigidirle e farle diventare, ci vuole niente, cioè Kant ha un, quindi diciamo sempre un passo oltre, un passo avanti, ma i contemporanei e di poco successivi pensatori tedeschi a Kant sono i pensatori che prendono questo suo trascendentale, infatti, e lo fanno subito diventare in qualche maniera trascendente. O allargano o spiegano la cosa in modo tale da interpretare il sistema kantiano, comunque svilupparlo, in un senso più simile a quello delle idee che aveva il vescovo Berkeley un secolo e mezzo prima in Inghilterra. Cioè il mondo è una creazione del soggetto. Kant non dice che il mondo è una creazione del soggetto, dice che il mondo è forgiato dal soggetto, che il soggetto deve fare delle cose per conoscere, quindi c'è l'impronta, però il retro, Kant si salva, dietro c'è comunque il come si chiama, umeno, che non solo è inconoscibile, ma è intoccabile. Per chi conosce un po' Lacan, sembra tanto il grande altro di Lacan. Fichte, Schelling ed Hegel, i tre grandi rappresentanti della scuola cosiddetta idealista tedesca, soprattutto Hegel, ma anche gli altri due, insomma, abbiamo Kant, Fichte si inventa praticamente un io che crea il mondo, cioè una sorta di io, diciamo, individuale, ma, cioè, mentre diciamo Hegel, che è più, insomma, è anche più vivace da un certo punto di vista, insomma, è concettualmente molto più articolato, gli cambia nome, lo chiama Geist, lo chiama spirito, ma di fatto prende questa dimensione trascendentale di Kant, la allarga un po', la fa, cioè, ok, e cosa fa? Cioè, visto che abbiamo uno strumento così potente, basta allargarlo un pochino, si può introiettare, infilarci dentro tutto, tutto quello che era all'esterno diventa all'interno dello spirito. Non solo, Hegel si preoccupa di farci capire come la storia della specie umana non sia altro che la storia successiva dello svelamento di questa verità di fondo, che non c'è nessun esterno, che non c'è nessun mondo, che non c'è nessuna specie, che non c'è nessuna vera differenza tra l'interno e l'esterno, perché tutto il mondo era già fino dall'inizio potenzialmente racchiuso in questa grande e titanica entità che è lo spirito, che è il Geist, il quale diventa a poco sempre più cosciente, quindi l'autocoscienza, fenomenologia dello spirito, cioè storia dei gradi attraverso i quali lo spirito acquista la coscienza di essere davvero quello che è, e quando alla fine arriva lo spirito arriva a diventare lo spirito assoluto, cioè ad aver capito finalmente, quando vede se stesso e il mondo come una cosa sola, che cosa succede, ragazzi? In questo caso è finito tutto, non c'è più niente da fare, la storia è finita. Che storia volete fare? Lo spirito si è riconosciuto, lo spirito e il mondo sono uno, non c'è più il cambiamento, non c'è più nulla. Il divenire che ha tanto appassionato, che ha tanto divertito anche tutta quanta l'umanità, scompare in questa grande. E quindi c'è una sorta di filosofia della storia, immanente alla storia. La filosofia spiega il senso della storia perché è già, come dire, immanente questo senso. Naturalmente si tratta della solita vecchia storia di queste 12 tribù ebraiche che stanno in Palestina, perché cambiata è questa, è l'idea, insomma, la cultura ebraica era una delle pochissime culture che in quell'ambito lì concepiva il tempo come qualcosa di lineare che va da un punto all'altro e non come un circolo che si ripete indefinitamente. Con Hegel questa cosa diventa e l'hegelismo di destra e di sinistra non sfugge a questa trappola mortale, a questa insidia, a questo bellissimo quadro, a questa bellissima idea, perché finalmente abbiamo una variante laica della Gerusalemme celeste che cade sulla terra. Abbiamo lo spirito assoluto, versione di Hegel. Abbiamo la società senza classi, versione di Marx. Abbiamo Feuerbach, abbiamo tutta una serie di... In particolare il marxismo, che è il derivato e la costola più interessante e anche storicamente più attiva dell'hegelismo, però in realtà non solo il marxismo, ma neanche Marx ha mai davvero superato Hegel. Marx si è semplicemente limitato a, certo, ha storicizzato il soggetto, perché c'è certo il soggetto, ma c'è un soggetto anche in Marx, soltanto che non si chiama spirito, si chiama proletariato. Ma è esattamente la stessa cosa, e c'è una filosofia della storia anche in Marx, c'è un fine, la storia tende verso un fine. Questi sistemi filosofici di tipo hegeliano sono sistemi nei quali, sono ambiti concettuali nei quali il caso, la casualità, non la causalità, la casualità non ha più un ruolo, è tutto in qualche maniera definito, sono cose bellissime, cioè acquietano l'anima e ve lo dico per esperienza personale, cioè perché sembrano veramente delle cose. Poi uno dopo un po' si avvede, ma però accidenti, cioè questo è un quadro in cui io non posso inserire. Se ogni volta che io tento di far giocare il caso, tento di far giocare l'imprevisto, tento di far giocare il margine, lo scarto contro la normalità, in realtà faccio il gioco, sì, si può fare, ma è perché lo spirito, il proletariato, la classe, il partito, poi i nomi sono vari, ma il concetto è sempre quello. È l'universalismo che, è dietro ad ognuna di queste cose. Evito di dirvi, Marx è stato chiamato, insieme con Freud e con Nietzsche, c'è questa triade di filosofi, Marx, Freud e Nietzsche, sono questi filosofi del sospetto, cioè sono quelli che hanno introdotto, ma c'è sempre come dire, sospetto che le cose non siano come sembrano. L'io non è padrone a casa sua, dice Freud, perché c'è l'inconscio, perché ci sono altre motivazioni. La libertà non è così automatica come noi pensiamo, dietro ci sono altre cose. In realtà però di questi tre grandi filosofi del, come dire, sospetto, due sono tutti e tre in qualche maniera universalisti, cioè pretendono di dare una cosa. Però Marx e Freud sono non soltanto universalisti, ma in qualche modo anche dirigono lo sviluppo dell'umanità in una cosa, cioè vedono in qualche modo una sorta di direzione privilegiata dello sviluppo dell'umanità. Invece il filosofo che più di ogni altro decostruisce tutto il sapere sull'uomo stesso, quindi ovviamente all'interno della dominante, come dire, insomma, gnoseologica della questa modernità, è Nietzsche. Adesso io rapidissimamente, perché non volevo, ma insomma, nel primo aforisma di un libro che si chiama Umano troppo umano, ed è stato pubblicato, se non vado errato, nel 1878, quindi fa parte del Nietzsche di mezzo, insomma, del primo Nietzsche. Nietzsche scrive: i problemi filosofici riprendono oggi in tutto e per tutto quasi la stessa forma interrogativa di 2000 anni fa. Come può qualcosa nascere dal suo opposto, per esempio il razionale dall'irrazionale, ciò che sente da ciò che è morto, la logica dall'illogicità, il contemplare disinteressato dal bramoso volere, il vivere per gli altri dall'egoismo, la verità dagli errori? La filosofia metafisica ha potuto sinora superare questa difficoltà negando che l'una cosa nasce dall'altra e ammettendo per le cose stimate superiori un'origine miracolosa che scaturirebbe immediatamente dal nocciolo e dall'essenza della cosa in sé. Invece la filosofia storica, che non è più affatto pensabile separata dalle scienze naturali, anche su Nietzsche, con decenni di distanza, quasi un secolo di distanza, influisce questa cosa delle scienze naturali. Invece la filosofia storica e il più recente di tutti i metodi filosofici ha accettato in singoli casi che quelle cose non sono opposte, tranne che nella consueta esagerazione della concezione popolare o metafisica, e che alla base di tale contrapposizione sta un errore di ragionamento. Secondo la sua spiegazione non esiste, a rigor di termini, né un agire altruistico né un contemplare pienamente disinteressato. Entrambe le cose sono soltanto sublimazioni in cui l'elemento base appare quasi volatilizzato e solo alla più sottile osservazione si rivela ancora esistente. Tutto ciò di cui abbiamo bisogno e che allo stato presente delle singole scienze può esserci veramente dato è una chimica delle idee e dei sentimenti morali, religiosi ed estetici, come pure di tutte quelle emozioni che sperimentiamo in noi stessi nel grande e piccolo commercio della cultura e della società, e persino nella solitudine. Ma che avverrebbe se questa chimica concludesse col risultato che anche in questo campo i colori più magnifici si ottengono da materiali bassi e persino spregiati? Tutti e tre, da un certo punto di vista, i modi di pensare, non si sa, per Nietzsche non si può neanche parlare di sistema filosofico in senso, come dire, tradizionale, forse neanche per Marx, per certi versi, forse più per... Insomma, comunque sia, questi sistemi, questi modi di pensiero, in tutti e tre questi casi, c'è una operazione. L'operazione di fondo è quella dello scavare. C'è una verità che sottostà al regno dell'apparenza, allo splendore della cosa, ed è una verità spesso sgradevole. Gratta il conscio, gratta i buoni come sentimenti e troverai l'inconscio, troverai il complesso di Edipo, troverai la pulsione sessuale verso tua madre, troverai la voglia di superare o di trasgredire il tabù dell'incesto. Gratta sotto le belle parole dei politici sulla democrazia, sulla libertà, eccetera, eccetera, e troverai al fondo gli interessi economici. Anche in Nietzsche spesso c'è questo tipo di modello, cioè devo andare a cercare il nucleo delle cose, ma fra i tre Nietzsche quello in cui questo modello è meno forte, perché si accompagna con un altro movimento, che è quello che secondo me rimane, io spero di poterlo far vedere poi nel corso, che è fondamentale in Foucault, perché anche Foucault rifiuta lo scavare sotto, rifiuta la logica dello scopriamo che cosa c'è sotto. Nietzsche molto spesso non scava sotto, si mette di lato. Si mette da un'altra parte, certo che ci vuole sempre un punto di vista differente, ma l'idea, cioè l'ossessione di andare a cercare la verità segreta, nascosta, eccetera, in qualche modo ricorda che anche questi tentativi, Marx e Freud, di decostruzione del, diciamo, reale, in realtà sono come dire, compagni prossimi del pensiero apologetico dell'esistente, del pensiero metafisico, condividono con questo l'idea che ci sia il famoso nucleo nascosto, il famoso nucleo segreto, eccetera, eccetera. Questa chimica delle idee e dei, diciamo, sentimenti di cui parla Nietzsche e il suo primato del divenire sull'essere e la critica fortissima che lui fa, specialmente in Genealogia della morale, sul concetto di soggetto e sul concetto di sostrato, di sostanza, dimostra che in realtà Nietzsche nel corso dell'Ottocento è quello che più di altri ha, senza dirlo in maniera esplicita, riesumato la concezione, diciamo, il filone scettico, la metodologia scettica. Vorrei dire in qualche maniera pervertendola a volte, quando la logica dello scavo, che c'è anche in Nietzsche, perché è ambiguo questo, prevale su quella della... Ludwig Rages, che è uno scrittore, diciamo, tedesco dei primi del Novecento, ha formulato una critica a Nietzsche contrapponendo dentro Nietzsche la dimensione dell'orgia, cioè dello scatenamento più che di ciò che sta in basso, di ciò che sta fuori dal sistema razionale, invece alla cosiddetta volontà di potenza. Secondo Klages, il Nietzsche della volontà di potenza sarebbe un Nietzsche, virgolette, normalizzatore. Io non ci credo tanto, però ve la dico per farvi capire che ci sono tante interpretazioni e per farvi capire soprattutto che comunque Nietzsche è quello più fecondo da questo punto di vista, e non a caso l'ultimo punto che voglio dire è che il termine e il concetto di genealogia, come lo usa Foucault, viene da Nietzsche, non solo per il titolo dell'opera Genealogia della, come dire, morale, ma perché effettivamente Nietzsche utilizza questo metodo di andare a cercare da dove sono cominciate le cose. Però mentre la genealogia nicciana è più confusa per certi versi di quella, come dire, foucaultiana, vedremo, e quindi è una genealogia obiettivamente dell'origine, cioè spesso Nietzsche va a cercare l'origine in qualche modo. Vedremo che invece Foucault, come buona parte del pensiero del, diciamo, Novecento, rifiuterà l'origine. Adesso, mi sono ricordato che mi sono mangiato tutto il tempo, mentre ovviamente bisognava dare spazio all'ultima parte che doveva fare Amos e che faranno, non so se vuoi farlo adesso o se vuoi farlo la volta prossima, che sui due altri tentativi di sviluppo di questi temi nel corso del, diciamo, Novecento, che sono quello di Husserl e quello di Heidegger, che sono la fenomenologia, e sono tutti tentativi, la fenomenologia perché utilizza un termine e un concetto direttamente ripresi dalla pratica degli scettici, cioè la epoché, la sospensione del, diciamo, giudizio, e chiamiamola l'ermeneutica, non lo so, insomma, nel caso di Heidegger è più duro, è più, insomma, difficile. Questi due sono particolarmente importanti perché in realtà, oltre a Marx e allo strutturalismo, sono i due caposaldi dell'atmosfera filosofica in Francia e più in generale in Europa negli anni 50, cioè subito dopo la guerra, con le quali Foucault si confronta e che Foucault tenta di superare. Va bene, io mi scuso per essere stato lungo, ma andate così. Allora, io vi devo dire che purtroppo non ci potrò essere nella prossima...